avuto solo un'occasione, solo una chance. Leggi il mio nome che altre facce non hai. Io mi prendo i tuoi club con il mio disco. Tu che hai fatto i milioni poi li evadi col fisco. Non ti capisco amico, spiegami. Io c'ho solo un'occasione per i debiti. Mettiti un attimo nei panni miei, poi cerca di rimediare i danni miei, poi cerca di tranquillizzare i miei, poi diglielo che volevo vivere la bad boy. Sono anni che ho tentato a sgridarmi e sono anni passati a stare a caccia di sbagli. Un'occasione, boh, altre non ne ho, che problemi hai? Non sono conscio zone, aspetta il prossimo, ma la mia corsa è diretta e se perderò questa sarà colpa dell'erba. Oh, only allocation, oh, only allocation, oh, only allocation. Allocation, oh, only allocation, oh, only allocation, oh, only allocation. Anche mia madre mi diceva vacci piano, forse è meglio che vai bene a scuola. Io per i cazzi miei nemmeno l'ascoltavo, perché intanto avevo in testa una cosa sola. E dopo che capisci prima che la vita è ladra, è un'occasione per non fare musica da strada e viverla come volevo era una vita cara. E non soltanto un'occasione per cambiare aria. Molte volte ti nascondi dietro me la cavo e la finisci a naso chiuso proprio come l'apo. A casa mia potresti pure fingerti il più bravo, ma qui ti fottono la schiena per il tuo denaro. Ho un'occasione per distinguermi tra i tuoi idoli appesi in cameretta. Ho un'occasione per esprimermi e questa gente riesce a non restare ferma. Oh, only allocation, oh, only allocation, oh, only allocation. Allocation, oh, only allocation, oh, only allocation, oh, only allocation. Allocation, ho solamente un'occasione, se non la prendo ora sono sicuro non ne esco. Datemi una cazzo di occasione, mi sembra quella giusta, ne ho bisogno per tirarmi su. Ho solamente un'occasione, se non la prendo ora sono sicuro non ne esco. Datemi una cazzo di occasione, mi sembra quella giusta, ne ho bisogno per tirarmi su. Ho solamente un'occasione, se non la prendo ora sono sicuro non ne esco. Datemi una cazzo di occasione, mi sembra quella giusta, ne ho bisogno per tirarmi su. Ho solamente un'occasione, se non la prendo ora sono sicuro non ne esco. Datemi una cazzo di occasione, mi sembra quella giusta, ne ho bisogno per tirarmi su.